loro guadagnano in contanti, ma nessuno vede che è tempo di fermarsi. Girano di notte con le armi scoperte, macchinette flash in qualche ristorante hotel. Hotel, hotel. E noi viviamo di gossip, queste sono le manie, vale dopo le bugie, ci accompagnano giorni. Gossip, mille foto sui giornali, fan tremare anche le mani, come sarà il mondo domani. E tutto è fermo qui, ogni giorno sulla rivista c'è chi ha bocca. Io ti pianto, sono stanca, tanto lui ha già un'altra. Girano di notte, rischiando anche le botte, macchinette rotte, senza fermarsi mai, mai, oh mai. E noi viviamo di gossip, queste sono sono le manie, vale dopo le bugie, ci accompagnano nei giorni. Gossip, le foto sui giornali, fan tremare anche le mani, come sarà il mondo domani. Pubblicità.